Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Oggi sarete con me, domani ritorna Sebastiano Barisoni. Di cosa parleremo oggi? La giornata si caratterizza ancora una volta e inevitabilmente in questa fase per un dibattito e per temi che riguardano i rapporti con l'Europa e come si sta muovendo l'Europa in queste ore. Da una parte c'è la questione che ci riguarda più da vicino in questo momento e più strettamente, che è la questione che riguarda le banche italiane. Ormai i titoli dei giornali specializzati internazionali si fanno progressivamente sempre più duri. Il Wall Street Journal che descrive la questione bancaria italiana come la prossima nostra crisi. C'è chi ipotizza che proprio la crisi bancaria italiana possa portare addirittura a uno scossone più violento complessivamente nell'area dell'euro, e questo ha molto a che fare evidentemente nei nostri rapporti con l'Europa. Come sapete, il nostro esecutivo, il nostro governo avrebbe l'intenzione di sostenere le banche, soprattutto per quanto riguarda i crediti in sofferenza, i crediti difficilmente esigibili, con circa 40 miliardi di euro, ma ovviamente per dare questo sostegno alle banche bisognerebbe in qualche modo aggirare la regola del cosiddetto bail-in, quelle regole che sono state approvate in Europa e che prevedono che a pagare quando le banche sono da salvare non siano più i contribuenti, ma siano in realtà gli azionisti e i detentori di obbligazioni bancarie. Il problema qual è? Anche questo ormai lo sapete, che se nel resto d'Europa spesso le obbligazioni bancarie sono detenute da grandi investitori, in Italia ci sono le obbligazioni bancarie sono in gran parte, se non in gran parte, comunque per una grossa fetta, detenute da risparmiatori. Ovviamente è questo evidentemente il grande problema, questo per circa 200 miliardi di euro. In mezzo si innestano le vicende singole, sono quelle che riguardano le singole banche, come per esempio Monte dei Paschi, che oggi riunisce il consiglio d'amministrazione per dare una risposta alla Banca Centrale Europea, che ha chiesto un piano triennale per lo smaltimento di 10 miliardi di euro di sofferenze, appunto i crediti non più esigibili. Si inserisce la vicenda della Popolare di Vicenza, che oggi ha riunito l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio d'amministrazione, ovviamente sarà di fatto nominato dal Fondo Atlante, visto che controlla il 99,7% della banca, ma le tensioni anche in un'assemblea nella quale i piccoli azionisti sono ridotti al minimo si sono fatte sentire. Qualcuno ha urlato, appunto, avete fatto due morti. Queste alcune delle urla che si sono sentite. Nel frattempo si parla dell'interessamento di alcuni fondi americani per la stessa Popolare di Vicenza e poi per Veneto Banca, e ci sono anche interessamenti anche per le banche poi per così dire da una parte salvate e dall'altra che hanno creato un po' di problemi ovviamente in novembre. Quindi questo è un tema europeo sul piatto, perché se da una parte il governo vorrebbe intervenire aggirando le norme del bail-in, dall'altra parte c'è la Germania che osteggia questa decisione, visto tra l'altro l'arrivo delle elezioni tedesche nel settembre del 2017, tra poco più di un anno, e quindi la Germania da questo lato fa evidentemente resistenza. Questo è lo snodo anche di trattativa con Bruxelles su questo fronte, Bruxelles che cerca di riaversi dallo scossone Brexit. Oggi, non sapendo esattamente come muoversi, la Commissione europea ha preso le sue decisioni per quanto riguarda sforamenti di bilancio, i problemi di bilancio di Spagna e Portogallo, decidendo sostanzialmente di non sanzionare e di rimandare tutta la decisione al Consiglio europeo. Consiglio europeo che, come sapete, raccoglie i capi di Stato e di governo europei. Una decisione che fa il parallelo, e qua veniamo all'altro tema che affronteremo in questa puntata, che è parallela, se volete, a quella che è stata presa sull'accordo commerciale con il Canada. Un accordo commerciale con il Canada che dopo 5 anni di trattativa l'Europa avrebbe dovuto sostanzialmente sottoscrivere e che invece ha deciso di non sottoscrivere direttamente, ma di farlo passare dai 28 parlamenti nazionali, che poi diventano 38 se mettiamo tutti i numeri insieme, insomma, nel senso che in Italia deve passare per esempio da Camera e Senato. Questa questione ha sollevato un problema, cioè un'Europa che di fatto scarica la responsabilità e ridà sempre più potere, ridelega potere ai parlamenti nazionali. La sostanza è che questo accordo commerciale, che sarebbe stato molto importante anche per noi, che abbiamo un export di 3,7 miliardi di euro verso il Canada, potrebbe saltare, perché basta che uno dei parlamenti dica di no e questo accordo commerciale non si fa. Anche qua l'Europa ha dimostrato un blocco, un'incapacità di azione, e di questo tratteremo nella seconda parte della trasmissione. Rimanendo fuori dagli stretti temi europei, ma saranno compresi anche questi, ascolteremo invece un'intervista che ha realizzato la nostra Deborah Rosciani, inviata e in onda anche con Cuore Denari a Montepulciano per il Festival Luci sul Lavoro, un'intervista realizzata con il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti. Tutto questo tra poco, ma prima le notizie in breve di oggi. I numeri per intervenire li conoscete, l'SMS, il 349-238-6666, così come il numero su WhatsApp. Un numero invece che non vi ho dato è quello dei mercati, su come stanno andando adesso. Il FTSE MIB guadagna lo 0,3%, un indebolimento rispetto a come andava fino a metà giornata, ha dimezzato i guadagni, più 0,34% per il FTSE All Share. Parigi che guadagna lo 0,94%, Francoforte lo 0,6%, Londra l'1,38%. Per quanto riguarda l'America è piuttosto debole, il Dow Jones è vicino alla parità, più 0,05%, lo Standard & Poor's guadagna lo 0,14%, e visto che ci siamo, anche i titoli delle banche, anche se ci arriveremo tra poco. Popolare Emilia Romagna cede il 4,22%, Monte dei Paschi il 3,5%, Banco Popolare il 2,08%, gli altri titoli bancari sono positivi. Le materie prime, dopo la corsa degli ultimi mesi, l'oro almeno oggi ha tirato il fiato, meno 0,7% a $1,355 l'oncia. Per quanto riguarda il petrolio, il guadagno dello 0,86% sul WTI, quello quotato a New York, a $47,8 al barile, e il Brent guadagna lo 0,61% a $49 al barile. Una notizia di un'acquisizione importante: Danone ha scommesso sul cibo biologico, ha raggiunto un accordo per acquistare White Wave, un'azienda americana, per $10 miliardi. Si tratta della maggiore acquisizione di Danone nell'ultimo decennio e della prima operazione targata Emmanuel Faber, l'amministratore delegato di Danone che ha assunto l'incarico nel 2014. A proposito di accordi commerciali, ci arriveremo nella seconda parte della trasmissione, ma qua abbiamo il direttore generale del Fondo Monetario, Christine Lagarde, che dice che il protezionismo stile Donald Trump potrebbe danneggiare l'economia globale. E che cosa intende? Intende che Donald Trump, nei giorni scorsi, durante la sua campagna appunto per le presidenziali americane, l'ha messa giù dura, ha detto che vuole ritirarsi dal North American Free Trade Agreement, cioè quello che raccoglie tutte le nazioni del Nord America, e vuole ritirarsi anche dalla Trans-Pacific Partnership. Che cos'è? È il corrispettivo attraverso il Pacifico e quindi dall'altra parte dell'oceano per gli Stati Uniti del Trattato Atlantico che l'Europa vorrebbe sottoscrivere, che a questo punto, saltato l'accordo con il Canada, chissà se andrà mai in porto. E anzi, il ministro Calenda dice: è probabile che salti ed è una sconfitta per tutti. Anche sulla Brexit abbiamo un po' di dichiarazioni oggi, quelle del segretario generale dell'OCSE, Angel Gurria, che dice che l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea avrà un impatto e sta già avendo un impatto in praticamente tutti i paesi, per le catene di trasmissione dei mercati finanziari, per i tassi di interesse, per i corsi di borsa, per i valori delle valute, per lo spread, per le decisioni sui posti di lavoro. Ma soprattutto, aggiunge, avrà un impatto forte sulla Gran Bretagna. Ci sono poi i verbali della Banca Centrale Europea, che aveva messo in conto che nell'eventualità di un'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea ci sarebbero state rilevanti ricadute negative per l'economia, anche se difficili da prevedere. Mentre notizia di queste ore, che salgono a 6 i fondi immobiliari britannici che hanno temporaneamente sospeso il rimborso delle quote dei sottoscrittori dopo Standard & Life, Aviva e M&G. Si sono aggiunti Henderson, Canada Life e Columbia Threadneedle. In tutto i 6 fondi gestiscono asset per 15 miliardi di sterline. Alcune stime ipotizzano un calo del 20% in 3 anni nel valore degli immobili commerciali in Gran Bretagna a causa dell'uscita dall'Unione Europea. Prima di venire all'Italia, un ascoltatore mi segnala via WhatsApp, sempre al 349-238-6666, in tema di petrolio, che vede da informazioni che ha lui, che evidentemente ha un terminale davanti anche lui, un calo in realtà del prezzo del greggio. Devo dirvi questo, può darsi che i nostri dati siano lievemente ritardati. Di certo sono arrivati poco fa i dati sulle scorte settimanali di petrolio americane, un meno 2,223 milioni di barili, e può darsi evidentemente che questo abbia avuto un impatto, tant'è vero che stiamo vedendo sul nostro terminale, probabilmente con un po' di ritardo, il fatto che il petrolio sta girando verso il negativo. Questo solo come segnalazione. Per quanto riguarda l'Italia, dicevamo, abbiamo dati positivi sui consumi, più 0,4%, ma riguardano tutto il 2015. Qua l'Ansa titola: si torna a mangiare carne. In realtà non è esattamente così. Si arresta il calo dei consumi di carne in atto dal 2011. Cresce invece a 2 cifre la spesa degli italiani in alberghi e ristoranti, sempre nel 2015, ma ancora quasi una famiglia su 2 rinuncia a viaggi e vacanze. Sempre dati Istat, la Calabria è la regione con la spesa media mensile più bassa, inferiore di 1.300 euro rispetto a quella della Lombardia. Beh, insomma, non mi sembra un dato pazzesco. Sempre fornito dall'Istat. Mentre invece sono interessanti i dati forniti oggi dalla Coop, che ha presentato un nuovo rapporto, un database che riguarda i comuni d'Italia. I consumi alimentari più alti sono a Campione d'Italia, che proprio in Italia non è, come sapete, 3.500 euro annui pro capite, mentre Dambei in Trentino, quello dove si consuma di meno, qui la spesa raggiunge i 1.273 euro. Albino Russo, direttore ufficio studi della Coop, al microfono di Maria Luisa Pezzali. Certo, il cibo costituisce uno dei cambiamenti più netti. Negli anni 30 uno su 3 era denutrito, secondo l'OMS oggi più del 20% della popolazione italiana è obesa. Mangiavamo 15 kg di carne pro capite a testa, negli anni 10 abbiamo sfiorato i 90 kg. Se il cibo è una corretta metafora degli italiani di ieri, di oggi e forse di domani, siamo passati da una condizione di ampia sottonutrizione a quell'ipernutrizione che sta oggi cambiando le regole del gioco nel settore alimentare. Se è vero che gli italiani oggi immaginano il loro futuro alimentare, con molta meno carne, più frutta e verdura e sicuramente un atteggiamento di maggiore sobrietà. Desideri e paure per il futuro, gli italiani che cosa si aspettano? Beh, gli italiani dimostrano, come al solito, nella loro storia molto pragmatismo. Sorprendente come gli italiani immaginano di dare minore importanza alla fama, alla notorietà e ai soldi e pensano invece ad una qualità della vita migliore. Si concentrano sul cibo che costituisce una delle leve appunto di un sistema di maggiore attenzione al benessere. Si interrogano sull'opportunità di rivolgersi alle nuove tecnologie, infatti uno dei lavori più citati sul futuro degli italiani è appunto l'information technology, ma allo stesso tempo al secondo posto si colloca il lavoro stabile e quello dell'insegnamento. Tra identità locale e globale anche il sentimento europeista è cambiato negli anni. Beh sì, l'europeismo è un pezzo dell'identità nazionale degli italiani, che sono un paese che è molto più local che nazionale e che ha sempre guardato all'Europa come diciamo una terra promessa. Non è un caso che gli italiani fossero già dagli albori dell'Unione Europea, quindi nell'immediato dopoguerra, fossero il paese più euroentusiasta. Più del 60% della popolazione pensava che fosse una buona cosa l'integrazione europea. Questo è stato vero fino diciamo agli anni 90, fino all'accordo di Maastricht, e oggi gli italiani in un qualche modo hanno evidenziato, come altri paesi europei, un qualche scetticismo in più. E ancora abbiamo qualche dato sul lavoro, ci arriveremo più avanti, anche i dati diffusi dall'INPS oggi che ha presentato il suo rapporto annuale, abbiamo quelli dell'OCSE che ci dice per esempio che in Italia il 57% dei giovani lavoratori è precario, il 43% degli under 25 resta nello stesso posto per meno di un anno. Ci sono anche altri dati da Banca Italia che parla di 82.000 segnalazioni di operazioni sospette nel 2015, aumentano di 10.000 rispetto al 2014, ma dalla pubblica amministrazione solo 21 segnalazioni di operazioni sospette nel 2015 e solo 7 nei primi 6 mesi. A questo sono dedicati 100 secondi di Radio 24, già firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Aumentano le segnalazioni alle autorità sulle operazioni sospette di riciclaggio. È la conclusione principale del rapporto annuale 2015 dell'Unità di Informazione Finanziaria, UIF, della Banca d'Italia. L'UIF lavora in Italia proprio alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo attraverso la segnalazione di operazioni sospette sui flussi finanziari trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori. Sono state oltre 82.000 le segnalazioni lo scorso anno, ben 10.000 in più dell'anno precedente, e nel primo semestre del 2016 siamo già oltre quota 50.000. Nel complesso sono state però solo 300 le denunce relative a transazioni riconducibili ad attività legate direttamente al terrorismo. È un bene? È un male? È un bene perché significa che chi deve segnalare lo fa molto più di prima e aumenta quindi la consapevolezza del ruolo e dell'importanza della denuncia come presidio di legalità nelle transazioni economiche. È un male perché evidentemente l'Italia si configura ancora come un'ampia zona grigia di soggetti e ambiti di attività che non si fanno problemi a interagire con aree controllate dalla criminalità organizzata. Rispetto al totale sono ancora poche poi le segnalazioni fatte dai professionisti, che sono comunque cresciute da 2.500 fino a quasi 6.000 e sono per lo più legate alle operazioni di rientro dei capitali previste con la voluntary disclosure. Sono aumentate del 60% invece le segnalazioni legate al gioco e alle scommesse o ai negozi di compro oro. Nel complesso, l'ufficio della Banca d'Italia ha trasmesso ai magistrati ben 85.000 dossier. C'è una nota dolente e grave, segnalata sempre dall'UIF nella relazione annuale, la scarsa collaborazione da parte degli uffici della pubblica amministrazione. Sono state 21, sì, avete capito bene, 21, solo 21 le segnalazioni, e finora quest'anno ne sono arrivate 7. Come al solito, nella pubblica amministrazione l'atteggiamento prevalente è lo scaricabarile burocratico, anche se si tratta di mafia e di terrorismo. Diciamocelo francamente, non è un bell'esempio, anzi, c'è proprio da vergognarsi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. E dunque iniziamo col primo tema di giornata, e che ancora una volta è un tema che riguarda le banche italiane. Mettiamola così, la pura cronaca di oggi ci dice che è in corso il consiglio d'amministrazione di Monte dei Paschi, che dovrà rispondere alla BCE, la quale ha chiesto un piano triennale per lo smaltimento di 10 miliardi di euro di sofferenze, ossia di crediti non più esigibili o difficilissimamente esigibili. O comunque non esigibili al valore nominale, ecco, mettiamola così. Abbiamo l'Assemblea della Popolare di Vicenza, che ha nominato un nuovo consiglio d'amministrazione, ma con il consigliere delegato Iorio contestato da qualcuno che ha detto: avete due morti sulla coscienza. E abbiamo anche il quadro generale, ossia questa trattativa che l'Italia sta portando avanti con Bruxelles per poter sganciare 40 miliardi di euro alle banche. E per far sì che non salti tutto, è detta proprio brutalmente. Come vi dicevo in apertura, i servizi che leggiamo sui quotidiani internazionali, da Wall Street Journal all'Economist, passando per l'FT, in questi servizi c'è un certo grado di preoccupazione, un certo grado di preoccupazione che però non riguarda solamente il nostro paese. Il concetto è un po': se salta il tappo qua, salta tutta Europa. E probabilmente il governo sta facendo forza anche su questo post-Brexit per poter arrivare ad un accordo, cioè lo snodo politico, la finestra politica teoricamente è buona. Vedremo come andrà a finire. Marco Ferrando del Sole 24 Ore, super lavoro per i nostri GR, per GR24, per qua in Focus Economia, e ovviamente tutto quello che devi scrivere quotidianamente sul giornale. Ciao Marco, buonasera. Buonasera a voi. Eccoci qua. Allora, iniziamo dal piccolo e poi andiamo sul generale. Iniziamo da Monte dei Paschi. Qua ovviamente siamo semplicemente in attesa di notizie. Nel frattempo, ieri rimbalzino in borsa, rimbalzino perché è stato potente in termini percentuali. Certo che ha perso più o meno l'80% dall'inizio dell'anno, se non sbaglio nell'ultimo anno, Marco. Dall'inizio dell'anno, oggi giù di un altro 6,15% in questo momento, insomma, anzi sono 17,31, quindi siamo a chiusura di borsa, giù di un altro 6,15%. Allora Marco, come se ne esce, e che aria tira dalle parti di Monte dei Paschi? Ma tira un'aria che è sempre difficile da cogliere, ormai purtroppo questa è una situazione che va avanti da mesi, dall'inizio dell'anno, come dicevi. C'è questo CDA in corso, domani deve essere spedita, quindi oggi verrà esaminata la risposta della BCE, che due settimane fa, proprio vigilia di Brexit, ha chiesto questa cura da cavallo sui crediti deteriorati. Accennavi tu, 10 miliardi di crediti deteriorati netti, quindi vuol dire circa il doppio lordi, da smaltire in 3 anni è veramente tanto, più o meno il valore del mercato degli NPL in Italia nel suo complesso. Questo evidentemente ha fatto precipitare il titolo, perché vendere crediti deteriorati vuol dire verosimilmente creare un buco di bilancio, perché sono postati a un valore più alto di quello che riconosce il mercato, e così si spiegano probabilmente anche le vendite di oggi. Da Siena partirà una risposta, si dirà alla BCE: possiamo fare questo, vogliamo fare questo. Probabilmente si chiederà anche di ridurre un po' questa cifra di 10 miliardi, sperando in uno sconto che magari potrebbe anche arrivare, ma comunque di piccola entità. Però forse il tavolo più importante, come accennavi, è quello che vede protagonisti Roma, quindi il governo, e Bruxelles, Commissione Europea. destinato a trovare uno schema, una via tecnica ammissibile dal punto di vista delle norme che, come sappiamo, dal bail-in, quindi da gennaio, impediscono l'iniezione di fondi pubblici nelle banche, salvo casi eccezionali, ebbene definire uno schema in base al quale si possa tappare il buco di bilancio che probabilmente, il buco di capitale che probabilmente si verrà a creare. Ieri Renzi è stato chiaro, serve una soluzione di mercato, però è anche vero che sul mercato oggi la banca vale meno di 1 miliardo, quindi questo ci dice che il mercato oggi non è disposto a comprare la banca. Si ragiona su una garanzia statale, chissà mai che se lo Stato dovesse garantire eventuali inoptati, magari gli investitori, vedendo che, come dire, il contesto regge, c'è una rete, magari potrebbero cambiare idea e quindi decidere di sottoscrivere parte o tutto l'aumento. Sicuramente il combinato disposto fa sì che il mercato non capisce più niente e quindi vende. Eh sì, molto, molto semplicemente, molto brutalmente. Ci si mette in tutto questo anche Morgan Stanley, che ieri ha fatto dei suoi stress test, posto che gli stress test, ossia l'analisi sullo stato di salute dal punto di vista patrimoniale delle banche, arriverà a fine mese e anche là potrebbero essere dolori per alcune delle banche italiane. Ci si è messa anche Morgan Stanley, che ha detto secondo i nostri stress test né Monte dei Paschi né Banco Popolare ci rientrano. Banco Popolare, che ieri ha preso una botta in borsa esattamente per questo motivo, oggi perde un altro 3,20%, ma contesta durissimamente l'analisi di Morgan Stanley e dice, e anzi addirittura la Consob su questa analisi di Morgan Stanley, rilasciata tra l'altro a mercato aperto, ha deciso di aprire sostanzialmente un fascicolo. Vorrei tornare con te sul quadro generale e appunto su questi 40 miliardi, sul tipo di trattativa che si apre e che si sta facendo anche politicamente più dura, perché ieri Renzi è stato molto duro appunto su, in particolare con un riferimento particolare, probabilmente quello a Deutsche Bank, su quanto le banche non italiane hanno in pancia derivati. Oggi è arrivata una risposta del presidente dell'Eurogruppo che ha l'aria altrettanto dura, non sappiamo se ci ha messo la manina Berlino dietro questa risposta, ma c'è una certa probabilità, ha detto il bail-in, la direttiva sul bail-in non si aggira. Pausa, ne parliamo tra un attimo. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Focus Economia. Oh, e ha pure ragione Giorgio, che al 349-238-6666 ci dice sono 40 miliardi nostri e paghiamo per quelli che ci hanno mangiato, non solo per i non performing loans, ossia per le sofferenze di artigiani e simili. Allora, il ci hanno mangiato è forse un termine un po' forte, anche se in parte, e lo abbiamo raccontato ampiamente anche da questi microfoni sulle colonne del Sole 24 Ore, è avvenuto. Di certo, come dire, è stato concesso il credito anche un po' alla leggera. A questo però si aggiunge la difficoltà estrema in questo paese di recuperare questi crediti. Davanti a un giudice le banche, per recuperare magari per esempio il bene che è a garanzia di questo credito, che può essere una casa, un capannone, una cosa di questo genere, impiegano in media 8 anni, nel 25% dei casi impiegano 12 anni e ti credo che le sofferenze bancarie italiane sono valutate tra il 20 e il 25% del valore nominale, contro il 40-44% di media al quale l'hanno iscritte in bilancio le stesse banche, almeno mediamente. Comunque, la trattativa, Marco Ferrando. Sì, la trattativa, come accennavamo prima, riguarda la possibilità per lo Stato di intervenire in qualche modo nella ricapitalizzazione del Monte, che può avvenire con un aumento, che può essere a quel punto, come dicevamo prima, garantito dallo Stato, può essere l'emissione di un convertibile, può essere un Padoan Bond, che quindi è la versione rivenuta e corretta dei vecchi Tremonti e Monti Bond, di cui peraltro il Monte aveva beneficiato pur pagando tassi di interesse usurari allo Stato. Purtroppo c'è una direttiva BRRD, quella che disciplina il bail-in, che consente un intervento dello Stato in casi eccezionali, ed è questo che si sta trattando, cioè se siamo in presenza di un caso eccezionale. Non solo, questo principio va calibrato con un altro principio, che è quello della condivisione del rischio, il burden sharing, cioè lo Stato non può mettere dei soldi se il rischio non è condiviso perlomeno con gli obbligazionisti. E qui si apre un altro tema delicatissimo, perché noi in Italia abbiamo avuto il precedente delle quattro banche in cui sono stati convertiti in azioni, quindi azzerati, perché di fatto le banche sono fallite, 800 milioni di bond subordinati, di cui la metà era nelle tasche dei risparmiatori, e abbiamo visto che cosa è accaduto. Monte Paschi è una banca molto più grande, ci sono 6 miliardi di bond in circolazione nelle tasche di 60 mila risparmiatori. Questo è quello che vuole evitare il governo, ma vuole evitare anche la possibilità che vengano convertiti soltanto i bond in mano ai grandi fondi, agli istituzionali. Il Portogallo ci ha provato a dicembre e non si è ancora ripreso dal punto di vista delle quotazioni dei titoli di Stato. Quindi è veramente un tema delicato, anche perché non dimentichiamo, avviene in un momento in cui siamo reduci da Brexit, si discute sull'unione bancaria, la BCE comunque è oggetto di pesanti critiche su come sta conducendo l'attività di vigilanza, perché si dice che con le italiane molto dure, con le tedesche molto di meno, sono state autorizzate ricapitalizzazioni pubbliche, eccetera, eccetera, e questo appunto ci dà la misura di quanto sia difficile questa trattativa. Vedremo dunque come proseguirà questa trattativa. Io intanto ti ringrazio, grazie a Marco Ferrando del Sole 24 Ore anche per la consueta chiarezza, oltre che, come già si diceva, per il super lavoro che gli stiamo facendo fare. Ma insomma, speriamo che questo periodo finisca presto, non perché non abbiamo piacere di ospitare Marco Ferrando, ma perché vorrebbe dire che la questione bancaria si è finalmente risolta. Grazie dunque Marco. Noi adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi naturalmente andremo sui mercati. La chiusura è molto più debole di come è stato l'andamento per tutta la giornata. FTSE MIB più 0,08%, FTSE All Share più 0,17%, Francoforte che guadagna 0,5%, Londra l'1,22%, Parigi lo 0,8%, l'America è lievemente negativa, meno 0,03% il Dow Jones, più 0,04% invece lo Standard & Poor's 500. A tra un attimo. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. Allora, questa non è una trasmissione di servizio ma di informazione economica, però possiamo dire all'ascoltatore che nel caso ci fosse un piano di condivisione del rischio, per così dire, di Belin per il Monte dei Paschi, cosa che al momento non si prospetta, non sappiamo quali bond verrebbero coinvolti, cioè nemmeno se ne è parlato, quindi come facciamo a saperlo? Per quanto riguarda i correntisti, invece, fino ai 100.000 euro non rischiano niente. Ce lo chiede un altro ascoltatore. Adesso chiudiamo la parte di servizio e veniamo ai mercati. Il lieve ritardo che vi dicevamo all'inizio di avere sui nostri terminali ha fatto sì che ci perdessimo l'evento più importante di mercato nell'ultima fase di seduta, ossia il fatto che ci sono stati dati deludenti sulle scorte di petrolio americane, che il petrolio ha preso una virata a ribasso molto forte, con il WTI con consegna d'agosto in calo del 2%, sempre stando al nostro terminale che dovrebbe essere avere una ventina di minuti di ritardo, il Brent al altrettanto. Tutto questo ha avuto un impatto anche sui mercati e si chiude sui minimi di seduta. Eleonora Micheli, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Buonasera a tutti. È stato questo, no, che ha cambiato i destini della giornata di borsa? Esatto, è stato proprio la virata al ribasso del petrolio, che è passato da quasi più 2% in questo momento a meno 2,8%. Questo perché sono stati pubblicati i dati sulle scorte americane, che sono calate ma meno di quanto sperassero gli analisti. Repentinamente il petrolio ha imboccato la strada del ribasso e così si sono rallentati anche gli ordini in acquisto sulle borse europee. Milano è rimasta in coda e alla fine ha chiuso sulla parità. Questo per quanto riguarda Milano, appunto, si diceva un più 0,08% per il FTSE MIB, un più 0,17% per il FTSE All Share, giornata non particolarmente brillante. E veniamo ai singoli titoli. Beh, Monte dei Paschi ne abbiamo parlato fino adesso, un meno 5,7%, così come abbiamo parlato di Banco Popolare, meno 2,5%, pesa ancora quel che ha detto ieri Morgan Stanley, e anche c'è anche la reazione del Banco Popolare da questo punto di vista che è dura. Giù anche Pop Emilia Romagna, meno 4,5%. 5,5%. Andiamo sui titoli positivi, vai Eleonora. Iux più 6%. Sì, Iux continua a festeggiare la presentazione del piano industriale che è avvenuta ieri a Londra. Ieri i titoli, nonostante la debolezza del mercato, sono andati bene. Oggi hanno registrato la performance migliore del FTSE MIB. Del resto Federico Marchetti, il fondatore di Iux, ha indicato forti tassi di crescita da qui al 2020. La società vuole mettere a segno un progresso del fatturato annuo tra il 17 e il 20% e migliorare inoltre anche i margini. Dovrebbe quindi andare meglio del mercato e conquistare nuove fette di mercato. Anche ieri Federico Marchetti ha detto che tra l'altro l'effetto Brexit è già stato messo in conto e sarà neutro sui conti del gruppo. Non solo, ha detto, sarà rafforzato l'headquarter, cioè il quartiere generale della società a Londra. Insomma, tutto sotto controllo e il mercato evidentemente sembra crederci. Bene, anche Mediaset è il secondo titolo migliore sul listino principale, sul FTSE MIB, un più 3,9%. Sì, anche in questo caso è sull'onda delle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi dei giorni scorsi, ossia che la raccolta pubblicitaria nel primo semestre dovrebbe essere aumentata del 4% circa, quindi un segnale positivo, anche se per i dati ufficiali occorrerà attendere a fine mese quando sarà diffusa la semestrale. Bene, anche Mediobanca, più 3,4%, Prismian più 2,5% e Saipem altrettanto, più 2,48% per essere esatti. Sì, in questo caso sono state le commesse vinte dalla società per 1,5 miliardi. Questo per quanto riguarda appunto Saipem. Ecco, dopo la botta di ieri, anche oggi Telecom Italia cede il 2,7%. Cede nonostante che la Consob abbia vetato gli ordini allo scoperto. D'altra parte fanno paura due cose per Telecom. La prima è che Xavier Niel uscirà dall'azionariato di Telecom Italia. Ricordiamo che attraverso derivati detiene il 15% circa del capitale. Ovviamente questa è una notizia che non fa bene alle azioni, ma in secondo luogo lo stesso Xavier Niel entrerà in Italia nel settore delle TLC come concorrente di Telecom Italia, in quanto rileverà degli asset che metteranno in vendita Wind e 3, dunque attraverso la sua creatura, la francese Iliad, inizierà a entrare nel mercato delle telecomunicazioni nella telefonia mobile. Ciò ovviamente fa molta paura al mercato. Ricordiamo che in Francia l'imprenditore ha fatto molto bene e dal 2012 oggi è riuscito a diventare il terzo operatore francese. E qua per quanto riguarda Telecom Italia, negativa anche Ferragamo, meno 1,24%, Snam che cede lo 0,95%, Poste Italiane lo 0,78%, Enel lo 0,67%, Luxottica che cede 0,5% percentuale, così come Ferrari, poco sotto la parità, in calo dello 0,32%, Unipol Sai, Unicredit dello 0,2%, così come Unipol dello 0,1%, Italcementi, UbiBanca e A2A, lievemente in positivo Terra, che guadagna lo 0,04%, Atlantia lo 0,05%, Generali lo 0,20%, Eni 0,5% percentuale, tra i bancari bene anche Intesa San Paolo che guadagna lo 0,6%, Pop Milano, Popolare Milano lo 0,92%, bene anche Mediolanum più 0,7%, fuori dal listino principale Eleonora c'è RCS, no? RCS sì, continua a essere sotto i riflettori, soprattutto domani sarà una giornata veramente clou. I titoli comunque navigano a 0,84 euro, che è un livello superiore sia alla proposta di Urbano Cairo, che ha messo sul piatto delle azioni di Cairo Communication, sia soprattutto dell'offerta cash messa sul piatto da un poker di azionisti e da Andrea Bonomi, il finanziere Andrea Bonomi, che hanno offerto 0,80 euro. Domani comunque il mercato si attende che entrambi i contendenti rilancino al rialzo e quindi la partita andrà ancora avanti. È da vedere poi alla fine chi vincerà davvero il controllo di RCS. E ti ringrazio, grazie anche per oggi ad Eleonora Micheli e ai colleghi di Radio Cori Il Sole 24 Ore e buonasera Eleonora. Buonasera. A proposito delle difficoltà di recupero dei crediti da parte delle banche, ha ragione anche l'ascoltatore che ci scrive al 349-238-6666 che mediamente in Italia è comunque difficile recuperare crediti a partire dagli inquilini. Il governo ha provato a metterci mano, ma con qualcosa evidentemente di troppo timido, che comunque avrà effetto un po' più a lungo termine, mentre invece il problema è più stretto. Parleremo di commercio internazionale e ancora di Europa dopo la pausa e GR24, e poi sentiremo l'intervista che ha realizzato Deborah Rosciani col ministro Poletti. A tra poco. Che cos'è l'Olimpo? Perché è importante fare sport? Come ci si prepara a un'Olimpiade? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Sono Federico Taddia e vi aspetto a terra in vista le Olimpiadi spiegate a mio figlio, insieme al filosofo della scienza, Telmo Pievani. Il mito, la vittoria, il limite, la corsa, ogni puntata una parola per raccontare lo spirito olimpico. E non solo, tante storie e curiosità, e poi le nostre rubriche come Non battere la fiaccola, le animaliedi e la scienza nello sport. Terra in vista ogni domenica alle 9. Perché l'importante non è vincere, è ascoltare. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa seconda parte di Focus Economia. Oggi siete con me, domani tornerà Sebastiano Barisoni. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. Vi ho detto prima della pausa che avremmo parlato di commercio internazionale, forse non era molto appealing per così dire, però insomma il tema è interessante soprattutto perché ci consente di continuare a parlare dei problemi europei. Li abbiamo affrontati nella prima parte della trasmissione quando abbiamo toccato il tema delle banche. C'è un problema di capacità di decidere dell'Unione Europea in questo momento che la botta della Brexit evidentemente non ha corretto. Ne volete una dimostrazione? Quello che è successo oggi, era attesa la decisione su Spagna e Portogallo, che non hanno preso misure efficaci per correggere i loro deficit eccessivi e dovranno fissare nuovi percorsi di aggiustamento ai fini del patto di stabilità, e però non solo non scatta nessuna sanzione, ma in aggiunta si rimanda la decisione al Consiglio europeo. E la decisione che è stata presa da Bruxelles per quanto riguarda l'accordo commerciale con il Canada, che per certi versi è considerato un prodromo, una premessa del TTIP, ossia l'accordo commerciale transatlantico con gli Stati Uniti, va in questa direzione. Spaventati i vertici europei da paesi nei quali l'euroscetticismo cresce, paesi nei quali una parte della popolazione sente una sorta di sottrazione di democrazia, hanno deciso nella sostanza di buttare a mare 5 anni di trattative con il Canada e di far sì che questo accordo commerciale fosse ratificato dai 28 parlamenti dei paesi europei, che poi sono 38 perché alcuni, come noi, di parlamenti ne hanno due, la Camera e il Senato. È decisamente un bel problema. È un bel problema perché mette anche in luce, come dire, l'affidabilità come partner della stessa Unione Europea, perché tu tratti per 5 anni e poi che fai? Gli dici no, guarda, ci sono 28 parlamenti che devono votare e se uno vota no, salta tutto. Paolo Bricco del Sole 24 Ore, ciao, buonasera Paolo. Buonasera Simone e buonasera a tutti i radioascoltatori. E Giuliano Noci, docente di strategie d'impresa al Politecnico di Milano. Professor Noci, buonasera, benvenuto. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, vorrei prima una sua valutazione, Noci, perché e poi tutto questo mette anche in crisi la possibilità, e su questo lo ha detto anche molto chiaramente il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, mette in crisi la possibilità che si possa raggiungere un accordo con gli Stati Uniti sul TTIP, no? Sì, comunque mi permette di dire che siamo tornati all'era in cui Kissinger diceva che numero di telefono devo fare per chiamare l'Europa. Siamo a un punto di minimo in cui la Commissione non gioca più alcun tipo di ruolo, siamo ritornati agli egoismi nazionali, ad egoismi che si appiattiscono su magari considerazioni che fanno piacere alla popolazione, ma che sono ampiamente confutati dalla realtà. Questi accordi internazionali sul commercio sono accordi che fanno bene all'economia e che fanno crescere il prodotto interno lordo. Poi, se vuole, ne possiamo parlare. Sì, parliamone, perché tra l'altro noi nella fattispecie, solo nella fattispecie, per parlare solo del Canada, no, abbiamo un export, Paolo, di 3,7 miliardi di euro, no? Sì, l'export, la cifra è quella che rispetto al 2007, l'ultimo anno pre-crisi, ha aumentato di un terzo. Quindi, come dire, un export importante che rappresenta anche la via di accesso privilegiata a tutto il ricchissimo mercato nordamericano. Questo per quanto riguarda i meri numeri per il Canada. Lo snodo politico però, appunto, Paolo, è quello che sottolineava il professor Noci e che sottolineavamo prima, cioè c'è cioè uno snodo politico centrale da questo punto di vista, cioè l'attesa di una reazione post-Brexit in sostanza si è conclusa in un nulla di fatto. Sì, l'Europa aveva la possibilità davvero di dimostrare a tutti gli altri protagonisti sullo scacchiere globale, dalla Cina all'India, dalla Russia agli Stati Uniti, di esserci dopo la botta di Brexit. Invece ha scelto per l'ennesima volta di ripiegarsi su se stessa, di non avere una posizione da soggetto unico, di sottostare agli interessi nazionali e alla fine ha quindi scelto questo meccanismo doppio di ratifica dell'accordo con il Canada, il che vuol dire molto semplicemente che molto probabilmente l'accordo non sarà ratificato, in quanto che appunto l'idea che 38 parlamenti diano tutti il loro placet oggi come oggi, con il populismo dilagante, il sentimento anti-euro e anti-Unione Europea è altamente improbabile. E soprattutto in qualche maniera anche pone l'ennesimo vincolo, l'ennesima ipoteca anche sulla realizzabilità appunto del TTIP, l'accordo di libero commercio con gli Stati Uniti, per cui inizierà stancamente, pieno di sotto una cappa di scetticismo, la prossima settimana, dall'11 al 15 luglio, l'ennesimo round a Bruxelles. Sì, tra l'altro il tutto dico, Paolo, già le cose si prospettavano rallentate, perché qua si attende tra l'altro l'elezione presidenziale americana, tenendo presente che a novembre potrebbe uscire fuori un presidente che, come raccontavamo in apertura, ci riferiamo a Donald Trump, è uno che ha detto che vuole ritirarsi dall'accordo stretto con i paesi che stanno dall'altra parte del Pacifico per gli Stati Uniti, che ha definito la Cina un pirata delle valute più o meno, e che tutti questi accordi violentano, testuali parole, ma il linguaggio di Trump è quello, violentano la nostra nazione, violentano gli Stati Uniti. E quindi, come dire, già c'era questo snodo importante dal punto di vista politico, adesso si aggiunge quest'altro. Si parlava dei benefici economici, professor Noci, qualche ascoltatore ci scrive, sì, benefici economici ma non benefici di salute. In realtà su questi temi, proprio su questi temi, Bruxelles è stata molto ferma nella trattativa con gli Stati Uniti, no? Sì, ma assolutamente sì, e veramente siamo in una fase, la Brexit lo dimostra plasticamente, in cui delle affermazioni senza senso, banali, sbagliate, vengono date in pasto alla nostra società, che le accetta supinamente. Allora, innanzitutto, il TTIP non è solo un accordo di libero scambio, è un accordo in cui devono essere discussi degli standard tecnici di prodotto, in cui, come lei ha ben evidenziato, l'Unione Europea almeno in questo ha mantenuto la barra ferma, dicendo che questi standard erano standard che non potevano essere al ribasso. Ma tornando poi al tema del benessere anche economico, io vorrei capire come sia possibile propinare alla popolazione e alla società considerazioni del fatto per cui dobbiamo chiudere il mercato, dobbiamo proteggere quella che è l'economia locale. È una stupidaggine termini e nei contenuti. E Donald Trump plasticamente questo rappresenta. Perché la possibilità, in un mondo occidentale in cui la domanda cresce moderatamente, in cui anche da un punto di vista demografico, sia comunque attraverso la conquista di nuovi mercati. Il Sole 24 Ore oggi pubblicava a nome di Carrère un bellissimo articolo che evidenziava come l'apertura tanto vituperata dell'accordo tra Unione Europea e Corea ha portato a un incremento in alcuni settori della domanda, quindi delle esportazioni del 55%, e c'erano i nostri produttori di calzature che invocavano altri accordi di questo tipo. Quindi, francamente, dobbiamo dire ai nostri radioascoltatori che dobbiamo parlare su basi circostanziate. La possibilità, cioè, Trump e similari, e in questi similari ci sono anche alcuni paesi dell'Unione Europea, vogliono portare le dinamiche di funzionamento della nostra economia a quelle del 1800 e del XIX secolo. Questo non è, come dire, serio, e dobbiamo fare un dibattito e far capire alla gente che queste considerazioni non hanno dignità di essere considerate. Allora, professor Noci, io la fermo un attimo, così come ritorniamo a parlare di questo tema. Ci sono anche un po' di messaggi degli ascoltatori subito dopo il traffico. Focus Economia. Allora, molti messaggi di ascoltatori e devo dire la verità, molto negativi. A me sembra, Paolo, che qua, Paolo Bricco, che qua si stia supportando una discussione con i dati. Poi, alla fine, è giusto anche avere delle preoccupazioni, cioè è giusto che si eserciti, come dire, un controllo su tutto questo, per carità, cioè, è indubitabile. Detto ciò, ripeto, qua si mette anche in dubbio la nostra affidabilità come Europa, come in grado di fare le trattative, molto semplicemente, sulla base di quello che è avvenuto, dei fatti, no? Ma in realtà, appunto, come ricordava il professor Noci, l'Europa ha mostrato in tutta la fase preliminare negoziale del lavoro con gli Stati Uniti una buona capacità di tenere salda la barra su argomenti come gli standard, come la qualità dei prodotti, come i controlli, e quindi parliamo ad esempio dell'agroalimentare, ma non soltanto dell'agroalimentare, e quindi in realtà questa cosa, diciamo, è smentita dai fatti. Piuttosto l'Europa fa fatica davvero a essere Europa, appunto. Qual è il numero telefonico dell'Europa, si chiedeva 40 anni fa Kissinger, e purtroppo la domanda è tornata valida ancora oggi. Io vorrei però ricordare ai radioascoltatori, di cui comprendo anche gli scetticismi, le paure nei confronti di un'Europa che sembra davvero essere soltanto tecnocrazia, eurocrazia, lontananza dalla quotidianità, che però il nostro sistema industriale, quello italiano, è basato e reso forte da un 20% di imprese a cui si deve l'80% del valore aggiunto prodotto dal nostro sistema economico. E questo 20% di imprese produce l'80% dell'export. Ora, sono quasi tutte piccole e medie imprese. Senza fare la retorica del bello e piccolo, che ormai è una cosa passatista e corretta, ma quando appunto c'è l'area di commercio aperto, come ad esempio quella con la Corea, è chiaro che il piccolo imprenditore lombardo, il medio imprenditore emiliano-romagnolo, il piccolo industriale toscano riesce a l'autostrada aperta verso quei mercati. Quando invece i mercati sono chiusi, ci sono delle dighe, cioè sì. È proprio il nostro interesse è coerente, la ragione per cui il governo insiste così tanto, anche Confindustria, anche il nostro giornale, e insiste così tanto sulla correttezza del free trade, sull'interesse del free trade non è per ragioni ideologiche, è proprio una ragione una questione con i nostri interessi. Sì, una questione pratica ed economica. Ci chiede qualche ascoltatore in concreto cosa succede. Cosa succede in concreto? Succede per esempio che si abbattono i dazi doganali, ma soprattutto diventa più facile dal punto di vista normativo esportare, anche importare. L'importante è mettere tutte le garanzie. Grazie Giuliano Noci del Politecnico di Milano, grazie a Paolo Bricco del Sole 24 Ore e buonasera a tutti e due. Noi adesso ci occupiamo di lavoro. E lo facciamo con un'intervista realizzata oggi dalla nostra Deborah Rosciani, che era presente a Luci sul Lavoro, che è la manifestazione che si svolge a Montepulciano, dalla quale siamo in diretta con Cuore Denari anche domani, e dalla quale saremo in diretta con l'Altra Europa. Un'intervista realizzata col ministro del Lavoro Giuliano Poletti, che ha commentato anche alcune affermazioni rilasciate dal presidente INPS Tito Boeri in occasione della presentazione a Roma del rapporto INPS, a cominciare dal commento sulla riforma Fornero, che graverebbe, stando a quanto detto da Boeri, sulle potenziali nuove assunzioni per i giovani. Sapevamo che la costruzione di questa legge senza una gradualità di fatto ha bloccato le uscite, e quindi in maniera abbastanza, posso dire, razionalmente, ragionevolmente prevedibile, ha prodotto un effetto sulla occupazione giovanile. Io credo che non ci sia un automatismo, naturalmente, per una persona che va in pensione e una che va a lavorare, perché i dati dicono che non sono così le cose, c'è la tecnologia, l'innovazione, la riorganizzazione, quindi non c'è un nesso automatico, ma sicuramente c'è un peso, quindi anche il lavoro che stiamo facendo per introdurre elementi di flessibilità in uscita un po' dovrebbero aiutarci ad attivare il mercato del lavoro in direzione dei giovani. Il part-time agevolato, ha detto Boeri, stenta a decollare. Perché? Ma io credo che sia un giudizio prematuro, perché una proposta nuova che è attiva da neanche un mese, sinceramente giudicarla mi pare assolutamente privo di fondamento, il che non vuol dire che nel tempo non si debba continuare a monitorarla, e se dimostrerà di funzionare benissimo, se dimostrerà di non funzionare avremo proposto un'opportunità ai lavoratori e alle imprese e avremo riscontrato che quella strada non è una strada che raccoglie un consenso, ma io credo che bisogna aspettare un po' di tempo. In Italia siamo troppo veloci a decretare i flop. APE, anticipo pensionistico, si sta andando avanti anche con questa operazione. Boeri ha chiesto massima trasparenza sul proseguimento appunto dell'iniziativa, soprattutto in relazione ai lavoratori che ne vorranno fruire, ma l'anticipo pensionistico col prestito bancario è proprio sicuro che sia una buona soluzione, Ministro? Soprattutto la comprenderanno i lavoratori che sceglieranno questa strada, secondo lei? Io credo che bisogna partire dal dato che altre strade fino ad ora nessuno le ha trovate, e quindi se l'alternativa è nessuna strada, questa strada vuol dire che questa è migliore. Poi naturalmente sono situazioni molto diverse, un conto è ragionare di persone che hanno perso il lavoro, non hanno più ammortizzatori sociali, e sul piano sociale li aiuteremo ad utilizzare questo strumento, e un altro conto è la situazione di un lavoratore che sta ancora lavorando e che sta prendendo uno stipendio e può decidere liberamente se vuole andare o non vuole andare in pensione. In quel caso farà la propria valutazione sul piano di quelli che sono i costi, di quelle che sono le opportunità, e sceglierà. È un grado di libertà. Io credo che per chi è in una condizione di necessità è una risposta, per chi è in una condizione di, tra virgolette, libertà di scegliere, è un'opportunità e valuterà se coglierlo o meno. Questa mattina abbiamo anche i dati OCSE sull'occupazione. L'OCSE parla di un'Italia sprecona che non sfrutta le competenze dei lavoratori, promuove però contestualmente anche il Jobs Act e chiede di velocizzare l'attività di ANPAL. Ne parlerà proprio tra qualche minuto. A che punto siamo? Io direi che siamo ad un buon punto, perché sostanzialmente abbiamo messo in movimento il primo passaggio di personale, il che significa che poi avremo le persone che fanno le cose. Io capisco le aspettative, ma credo che bisogna anche cogliere il dato che stiamo facendo un'operazione molto complessa e molto importante. Praticamente trasformiamo il Ministero del Lavoro, spostiamo un numero di persone rilevanti che hanno bisogno di avere un altro mestiere, che avranno bisogno di avere specifiche competenze. Ci sono dei passaggi che la legge prevede e non è nostra facoltà saltarli, la democrazia prevede anche queste cose, quindi bisogna usare al meglio il tempo che si ha. Noi lo stiamo usando al meglio, credo che nelle prossime settimane Alpal comincerà a sviluppare la sua azione. Ed è tutto per questa puntata di Focus Economia. Ringraziamenti vanno a Filippo Aureggi in regia, Mauro Del Corno in assistenza e in redazione. La trasmissione torna domani dopo GR24 delle 17 con Sebastiano Barizoni, torna il titolare della trasmissione. E noi ci risentiamo domani alle 13 con Effetto Giorno. Una buona serata da Simone Spezia. Radio 24. La passione si sente.